voce. Pierfrancesco Favino legge La paura di Federico De Roberto, replica del 2014. Un senso di inquietudine si diffondeva tra loro alla vista dei compagni colpiti, al pensiero che chi doveva andare sulla piazzola correva lo stesso pericolo. O credete che si possa tralasciare la consegna perché i vostri compagni ci sono rimasti? Se bersagliano la vedetta è segno che non vogliono essere visti, che preparano qualche colpo, che ammassano gente nel canalone per piombarci addosso senza mandarcela a dire e massacrarci tutti quanti. A grado la credine della voce si veniva temperando mentre lo sguardo frugava le posizioni avversarie e la mano stringeva forte il calcio della pistola. Ecco perché avranno appostato qualche tiratore scelto con un fucile di precisione montato probabilmente su cavalletto. Sperano che non ci manderemo più nessuno per poter quindi accomodarsi. Chi si contenta di lasciarli fare? Molti risposero insieme. Ma come? Ma nessuno? Ha bisogno o no? Chi l'ha che dice di no? Quando il coro dei consensi tacque, una voce osservò posatamente. Ci va chi l'ha di turno? Naturalmente, bella scoperta. Caporale, chi è di tu? Ma prima che l'ufficiale compisse la domanda, Gusmaroli, un altro dei lombardi che abbondavano nel plotone, un ragazzone atticciato e nerboruto, si fece avanti. Sortenent vomè. Tocca a te. No, signor, tocca a Zocchi, ma è Zocchi il gamio e fieu. E poi, mica fo vede a te come la che si scrive i bal del cecchi. Bravo, Gusmaroli. Questa è parlare da soldato. Non già stare a cavare i numeri del lotto. No, oh, bene. Va. Svelto. Giocondo, con l'elmo sulle 23, il volontario andò a fornirsi di bombe, si fece saltare il fucile dalla sinistra nella destra, impugnandolo sotto l'alzo, e salutò il compagno al quale si sostituiva. Allegra, Zocchi, che vomì. Ma com'è? Cosa l'è sto musone? Te sono contento? Cosa l'è che te get? Non pareva molto rassicurato Zocchi. Un anziano dell'84, alto e magro, con sul viso scarno e nelle cave occhiaie i segni delle lunghe fatiche. Ti aspetti di sera di chi dorme, eh? Se resti anche a me, te lasci in testamento in scatolette e mandale nuo a ca. Zocchi non rise, come altri compagni. Negli occhi dissero che egli era grato al volontario per la sostituzione. Gli occhi che si volgevano intorno inquieti e sospettosi. Allegri, ragazzi! Ciao, caporal. E l'ardimentoso s'avviò, regolando il passo col canto. E mi comandi che il mio corpo in sei tocchi e sia taglia e primto sarre d'Italia e secondo c'al battaglio. Bravo, ripetei forte Alfani, come se il partente potesse udirlo, ma indirettamente parlando ai rimasti. E bagnargli il naso a quelli che se la fanno nei calzoni. La voce si andava ora spegnendo in fondo al camminamento, le parole si indovinavano più che non si udissero. Il terzo avevano dissipato il senso di freddo diffuso nella trincea e quantunque le parole fossero tristi, parecchi canticchiavano allegramente o fischiettavano e il coro sommesso compiva la canzone perdutasi nella lontananza. In tuo paese le montagne calupiolisca di rose fior. Il certo pezzo alle frontiere che si ricordi del fucile. Poi Gusmaroli apparve fuori dal camminamento, ritto quant'era lungo, voltosi verso i compagni, levò l'arma in segno di saluto e si lanciò di corsa verso l'appostamento. Alfani sentì rimescolarsi il sangue dall'ammirazione e dall'angoscia. Ma rapidamente spostandosi, il corpo del soldato poteva meglio sfuggire alla mira e, giunto sulla piazzola, il parapetto lo avrebbe coperto. Vi fu in un lampo. Entrò nel raggio di sole che scendeva allora dal palalto e, prima di accosciarsi, si voltò ancora una volta verso i compagni, agitando trionfalmente il fucile. Poi l'arma gli sfuggì di mano e le braccia batterono l'aria e il corpo cadde riverso mentre la fucilata echeggiava di balza in balza. Tutti i cuori tremarono. La voce dell'ufficiale gridò: «Porca, dov'è il portaordini?» «Travelli!» chiamò a sua volta il sergente. Travelli accorse intanto che Alfani scriveva rapidamente qualche rigo sopra una pagina del suo taccuino. «Corri subito al comando del battaglione, capito? Di che mi mandino uno scudo da parapetto, questo è il buono di prelevamento, capito?» Sorsì e fece per andare. «Un momento!» Tracciate ancora poche parole sopra un altro foglio per riferire la novità, consegnò anche quello. «Al signor maggiore in persona. E portami lo scudo, se non c'è al battaglione cercano al reggimento, non perdere il tempo in chiacchiere, scappa!» Poi, brevemente, al capoposto: «A chi tocca?» si avanzò Zocchi, già in pieno assetto, tacitamente preparatosi dopo aver visto cadere il compagno, lo presentiva che la sua volta sarebbe subito venuta. Per questo non si era molto rallegrato della sostituzione, del troppo breve respiro, e pareva ora più piccolo che non fosse, perché teneva le spalle leggermente aggobbite e il capo un poco chino sotto il peso dell'elmetto acciaccato e calcato molto basso. Sarto, a casa sua, provvidenza dei compagni tutte le volte che avevano strappi e sdruci da farsi rammendare, ma non era molto marziale, Zocchi, in verità. Con quel suo viso largo di zigomi e appuntito sul mento, un gran naso sottile, gli occhi piccoli e fuggenti, il collo lungo e scarno, le orecchie grandi e spalmate come manichi di pignatta. «Animo, Zocchi, tocca a te.» La testa si chinò ancora un poco per dir di sì. «Tu sei una metta a posto. Senza spavalderie, dunque, che costano caro.» S'avviò senza aprir bocca l'anziano. Quando stava per imboccare il camminamento, si fermò come se avesse dimenticato qualche cosa e tornò sui propri passi. «Che c'è?» Sollevato lo sguardo in faccia all'ufficiale, inghiottì in modo che il pomo di Adamo gli viaggiò per il collo, poi disse con stento: «Sor tenente, io ci ho moglie e 3 bambini. Casomai il governo ce pensa lui, alla mia famiglia?» «Ma sì, il governo ci pensa, ci penserà, lo sapete tutti che il governo ci ha pensato, ma stammi allegro, per Dio, cos'è sta fifa?» La paura era nel suo sguardo tremulo, nelle sue labbra pallide, nei suoi ginocchi che si piegavano nella mano che pareva sul punto d'abbandonare il fucile. E Alfani lo conosceva anch'egli, il brivido tremendo dinanzi al pericolo certo, presente, inevitabile. Finché la minaccia è imprecisata nello scoppio di una granata che non si vede arrivare, in una raffica di mitragliatrice o in una scarica di fucileria inaspettata che possono e non possono colpire, il coraggio riesce ancora facile. Ma se la morte è acquattata, vigile, pronta a balzare e a ghermire, se bisogna andarle incontro fissandola negli occhi, senza difesa, allora i capelli si drizzano. La gola si strozza, gli occhi si velano, le gambe si piegano, le vene si vuotano. Tutte le fibre tremano, tutta la vita sfugge. Allora il coraggio è lo sforzo sovrumano di vincere la paura. Allora la volontà deve irrigidirsi, deve tendersi come una corda, come la corda del beccaio che trascina la vittima al macello. Vinceva il cuore dell'ufficiale dinanzi al soldato immobile e muto, il rimorso d'avere augurato che i nemici si ridestassero. Se il risveglio doveva consistere in quell'eccidio, e un prepotente bisogno di evitare il pericolo a quello sciagurato e una pena ineffabile per non trovare il come. Via, Zocchi, tu hai fatto la guerra. Tu sai che le pallottole sono cieche, che il nostro destino è in mano di Dio. Guardati. E va. Sopraggiungevano in quel punto gli uomini di corvée col calderotto del caffè per la distribuzione mattutina. I soldati porgevano le gavette nelle quali il distributore versava la bevanda attinta con la tazza dal lungo manico. Chi vuoi? Chiamò il sergente. Servì prima il sortenente. No, grazie. Non si sentiva di prendere nulla. Volle seguire l'anziano che già procedeva lungo il fosso, che si traeva da parte nei cunicoli per lasciar passare gli uomini che risalivano. Lo raggiunse mentre stava per entrare nel camminamento. Gli raccomandò: «Bada a tenerti più sulla sinistra, Zocchi, che il terreno è più riparato». «Sì, signore». «E di buon animo, che se spunta il solo naso d'un austriaco te lo concia per le feste». Ripresa la via, il soldato si fermò un momento allo svolto, si fece il segno della croce e sparì. Gli uomini spezzavano il pane nelle gavette, vi facevano la zuppa e la mangiavano golosamente. Pochi, oltre le sentinelle, stavano affacciati alle feritoie per veder riuscire i compagni allo scoperto, ma senza smettere di lavorare con i cucchiai e le mascelle. «Zocchi la fa franca, che resta anche lì. Cosa è che ti scommettete?» Un umbro disse sentenziosamente, masticando. «Pegola nera, pegola bianca, chi muore muore, chi campa campa». Un abruzzese cantilenò. «Lo nasce l'umoricca, guagliuccia. Hanno accucciato come la salsiccia». Per poco non impegnarono scommessa sul destino del compagno, sfamandosi con la zuppa dolce e calda, accendendo le pipe, divenuti filosofi col risveglio degli istinti egoistici, mentre invisibili occhi di rimpetto fra le nude rocce aspettavano il varco predestinato. A un tratto, nella gran pace, un sibilo, uno strido, e poi, più netto, un crocchiar cadenzato per aria sul canalone. «Iscorbat!» Roteavano altissimi, digradando lentamente verso la piazzola, attirati dall'odore del sangue. «Spetta! Carugna!» Una fucilata li disperse e Alfani non ebbe cuore di rimproverare chi trasgrediva il divieto di tirare senza ordini. «Ma Zocchi?» domandò ai graduati. «Com'è che non spunta ancora?» «Vatti a vedè!» ingiunse il sergente al caporale, ed ecco nel silenzio tornato profondo un altro suono, il suono d'una voce lontana, un lamento. Sì, ecco, un ai, e poi ancora lunghi e fiochi altri ai, ai. Alfani volle poter dubitare. «Cos'è?» «Che un quack tu la desse ora che lei viva anche a mo, sortenente», spiegò Borga a bassa voce. «Non è Zocchi?» «No, signore, sent», confermò più piano. «La vende più se lontana, la vuoi?» Ma i soldati avevano anch'essi compreso e, accostati al parapetto, nuovamente turbati e inquieti, scambiavano domande e osservazioni. «Chi sarà quel disgraziato?» «Ha da morire con Manugana, poro figlio di mamma sua». Con le mascelle contratte e gli occhi rossi, Alfani tornò a puntare il binocolo sul gruppo dei caduti. Non si vedeva muovere nessuno dei corpi, ma il gemito giungeva più distinto e straziante. «Ai, ai, ai». Tutto il cielo del nord, dietro il Lamagnolo, appariva ora appreso in una tetra lastra di piombo, mentre stracci di vapori uscivano dal fondo della folpola come da una caldaia e si alzavano intorno al sole. Il passo del caporale che tornava fece rivoltare l'ufficiale. «Ebbene, Zocchi?» Il graduato restò un poco in silenzio. «Si può sapere dove si è cacciato?» «Signor tenente, si è sciogliuto colpo». Ma subito dopo più voci annunziarono. «Eccolo, Zocchi!» Riappariva infatti in quel punto fuori dal camminamento, porse prima la testa, poi la ritrasse, poi si gettò a terra. Impossibile essere più guardinghi. Schiacciato, spiaccicato, Zocchi pareva fare una cosa col suolo. Non di meno avanzava impercettibilmente, senza lavorare di gomiti per non sollevarsi d'una linea, cercando a tastoni con le mani e i piedi le sporgenze alle quali s'afferrava per tirarsi su o s'appoggiava per spingersi innanzi. Quando uscì nel terreno più scoperto fu visto obliquare a sinistra e poi annaspare senza che si comprendesse perché, forse per essersi impigliato, lui o il fucile, e a un tratto la canna dell'arma emerse immediatamente, rintronò la schioppettata austriaca seguita da un grido lacerante e da voci furenti e minacciose. «C'ha passé a ti, mora ammazzato!» E di scatto parecchi colpi partirono. L'ufficiale tacque ancora a quella nuova infrazione della consegna. Come incolpare i soldati se, esasperati nel vedere cadere tanti compagni, non potevano trattenersi dal difenderli contro il rostro dei rapaci e dal rispondere ai nemici, seppure invano. Ora lo faceva anche egli mentalmente, il conto che facevano tutti. 5 colpiti, tra morti e malvivi, senza che si potesse pensare a ritirarli, senza che si potesse soccorrerli. Aveva anche egli il petto oppresso dall'angoscia che stringeva tutti, ormai i primi del turno come i più lontani, perché il turno si svolgeva troppo rapidamente, perché quanti tentavano di raggiungere quel posto maledetto, tanti ce ne restavano. E lo pensava a sua volta, ciò che qualcuno cominciava a dire sottovoce. Non c'è mica gusto a farsi ammassa così. Pazienza c'ha per le botte, ma se sia stiamo a fare la morte di Nat. Era stupido e crudele, infatti. Lo scudo non veniva. Ma se anche fosse venuto, come adoperarlo? Buono a riparare una persona ferma, non sarebbe riuscito facile spingerlo dinanzi, su quella via crucis. Rinunziare al distacco della vedetta bisognava, non tener conto della consegna, dell'insistenza con la quale tutte le ispezioni, dalle quotidiane del maggiore a quella passata 2 giorni innanzi dal generale brigadiere, avevano dimostrato l'estrema necessità della vigilanza all'imbocco del canalone. E questa facoltà, appunto, Alfani sperava e aspettava da un momento all'altro che i capi gli dessero, dopo aver saputo che cosa accadeva. Ma nessuno rispondeva nulla. E contro i lontani comandi, contro i pezzi grossi ben tappati al sicuro da ogni pericolo, andavano le mormorazioni dei soldati esposti a morte certa, inutile e ingloriosa. «I Lusarton danno orden e non se glassa la pelle? Perché avvenne sì? Avete che in quel posto è impossibile di riparare? Chi sta bene non se muove, dura la guerra che mi resisti». E molti ripeterono, ridendo amaro. «Dura la guerra che mi resisti». Era la frase ironica, il ritornello mordace col quale gli umili fanti che si logoravano nei fossi delle trincee, che sostenevano tutte le fatiche, che affrontavano tutti i pericoli, che pativano tutte le torture, esprimevano il cruccio e lo sdegno contro i fieri proponimenti ostentati dagli imboscati, dagli eroi da poltrona, dagli speculatori che lucravano sulla grande sciagura. Alfani finse di non aver udito. «Sta qui un momento», disse al sottufficiale che non gli si staccava dal fianco e non lo lasciava con gli occhi. «Io torno subito». Avviatosi alla cavernetta accanto alla quale stava il posto telefonico, chiese al telefonista di dargli la comunicazione del comando di linea e portò il ricevitore all'orecchio. «Pronto? Pronto? Chi parla? Posto numero 12. E io? Comando linea. Parlo con l'aiutante maggiore, con l'ufficiale di servizio. Preghi allora il signor colonnello che faccia aprire un fuoco di rappresaglia contro il quadretto 19. Come? 10 e 9, quadretto 19. Chiedo un tiro di rappresaglia perché mi hanno ucciso 5 uomini. Mi uccidono tutti gli uomini che mando alla vedetta del canalone. Uccisi? 5 uomini? Uccisi, buttati giù, rimasti lì dove non è possibile mandare a ritirarli se non vien buio. Il posto è pericoloso. Stamane i nemici si sono ridestati. Han cambiato i boemi con gli ungheresi. Lo aspettavo. Raddoppi d'attenzione, perché c'è ragione di temere una sorpresa. Appunto, dicevo che la piazzola è rimasta sguarnita. Ci mandi altri, per Dio! Me ne gettano a terra quanti ne mando! Ce ne mandi tanti finché i caduti formino parapetto.